Io non ho nulla di cui dire, è mio. Lontani e morti sono i miei cari. Più nessuna voce. Il mio compito sulla terra è finito. Oscuramente solo, vago. Per la mia patria che mi sta come sepolta intorno. Ma tu risplendi ancora, sole del cielo, un natura felice, dimentico il mio sguardo alla fronte tua, bella del cielo, che in te esulta nelle lacrime che piango, amante. Alla sua amata. Volo così, ma un attimo pensante m'atterra e mi riflette com'era prima solo, con il mio male di morte e il nido del mio cuore, l'eternamente uno e dileguato. L'uomo è un dio quando sogna, un mendicante quando riflette. Dell'infanzia quiete, celeste, o albero felice a lungo potrei ancora cantare dimenticando gli occhi sul tuo capo, fremente, guarda, s'anima muovono, velate vergini, e tra di loro è forse anche la mia. Lasciate, lasciate, me forza, addio la vita. Segua la traccia d'amore, compasso d'infanzia. O tu, tu che invocavo oltre le stelle, che nominavo artefice del cielo e della terra, idolo amico della mia innocenza, non me ne vuoi se t'ho dimenticato? Perché il mondo non è abbastanza misero da indurci a ricercare ancora uno di là dal mondo? O se figlia d'un padre, la natura è il suo cuore di figlia, non è il suo cuore. Adamas, Adamas, non ero io l'eco del suo muto entusiasmo, mie le sue melodie, ciò che vedevo lo divenivo, e divino era ciò che vedevo. Erro per il passato, spigolatore di stoppie, quando il campo è già stato mietuto. Adamas, Adamas, sarai solo, o diletto, sarai come la gru dimenticata dalle sorelle al freddo mentre vanno a cercare lontano primavera. Una grandezza antica, una bufera mi chinava alla fronte, mi strappava dal volto i fiori. O terra d'Omero, sotto la porpora del ciliegio, o quando da te venuti dentro il mio vigneto i giovani peschi verdeggiano e la rondine da lontano arriva e molto narrando alle mie mura si fa la casa dentro i giorni del maggio, anche sotto le stelle io penso, Ionia, a te. Ma gli uomini preferiscono ciò che è presente. Che importa, nessuno mi voleva. Addio, celesti, addio, morti sublimi. Vorrei seguirvi, smettere il mio secolo. A Smirne, a Smirne! Come un mare si stendeva il paese dove ero salito, tutto giovane, gioia, vivente, celeste, primavera, gioco, innumere, salutava in colori il mio cuore, e come il sole del cielo s'appagava nella luce variante mille forme dello specchio terrestre, anche il mio spirito si riconobbe nella vita piena, che d'ogni parte invadente l'abbracciava. Io volevo raccogliere in me tutta la vita fuggente, l'amore là fuori, dentro me lo volevo salvare. Desiderio segreto di vedere un uomo.